Scusi, posso dire una cosa? Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Passa in vantaggio con Matri al 21esimo minuto, gol da opportunista al posto giusto nel momento giusto. Ma io non so come lavoravano nel passato, io ho aggiunto dei miei concetti, che si giochi in un modo o che si giochi in un altro, è un modo mio di vedere il calcio, che non è detto che sia giusto e come non è detto che sia sbagliato quello che fanno altri. Giustissimo. Io dico solamente che ognuno deve fare quello che si sente di fare, soprattutto in cui crede. È normale, per giocare a calcio bisogna giocare bene tecnicamente, meno punti di riferimento dai, secondo me, e meglio è la squadra politica. Del primo tempo e in questo momento in finale andrebbe la Juventus. È chiaro che il sogno è triplete, è dura, pensando alla Champions, però sì, andiamo piano piano, adesso pensiamo a Parma, oggi contento per il trionfo perché questo lo meritavamo per quel sforzo che abbiamo fatto in settimana, adesso pensiamo a Parma e poi pensiamo alla Champions. Rimasto lì e poi arriva Bonucci nello sviluppo dal corner per un impatto di volo che vale lo 0-3. Si alzano tutti dalla panchina della Juventus al Franchi nella semifinale di ritorno. Fiorentina 0, Juventus 3. L'ho detto anche alla squadra che non abbiamo, i calciatori non hanno nulla da rimproverarsi, devono andare a casa a testa alta, così come sono andati a casa a testa alta incitandoci i nostri tifosi anche sul 3-0, e credo che questo debba essere lo spirito per resettare questa sconfitta, questa amarezza che ce ne sono tante nel calcio, e pensare alla prossima partita, ai prossimi impegni e avere quell'energia che ci ha contraddistinto fino adesso. Questo riepilogo di quello che è successo ieri sera, una partita meravigliosa almeno sul fronte bianconero, molto deludente su quello viola. Giorgio Drugo, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Bonamici in redazione. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Molto bene, anche perché saluto pure Luca Calamai dalla Gazzetta dello Sport. Ciao Luca. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Che nel suo commento di oggi ha usato questa parola che può sembrare quasi sconcia: triplete. No, sconcia, cioè è provocatoria. Provocatoria. È provocatoria perché ovviamente se ripartiamo dal 15 luglio scorso, quando improvvisamente esce di scena Conte, che sembrava l'architetto di tutto quello che era stato un rilancio della Juve, e inseriamo Allegri bocciato dal Milan, io personalmente, ti dico la verità, pensavo che fosse un percorso che anticipava un momento di passaggio proprio aziendale, no? Un anno di intermezzo in vista di ripartire con qualcosa di nuovo. Invece oggi la Juventus ha vinto lo scudetto, perché praticamente l'ha già vinto, è in finale di Coppa Italia e può vincere la 10ª Coppa, e tutto questo è nei quarti di una Champions con un avversario che è oggettivamente inferiore. E quindi perché non accendere il momento dei sogni, fermo restando che la Juventus, secondo me, se centrerà la semifinale di Champions, comunque vada, avrà già stravinto la sua stagione. Sì, certo, non sarà pornografica, ma è molto sexy questa parola triplete. La Juventus, Pier, mi ha sorpreso, almeno per metà, senza le sue stelle, Buffon, Pirlo, Pogba, Tevez, è andata a devastare il campo della squadra più in forma del campionato. Possiamo dire che al di là del triplete, di questa parola magica e molto sensuale, la Juve sta al nostro campionato come il Bayern sta a quello tedesco, come Real e Barcellona stanno a quello spagnolo, per esempio. Ma guarda, io non sono così sorpreso, sono sorpreso per la forma sicuramente, il 3-0 ieri, però soprattutto mi aspettavo di più dalla Fiorentina, nel senso che pensavo che rispetto a un anno fa, rispetto alla partita di Europa League, insomma, il punteggio dell'andata fosse ancora più importante, ancora più grosso per la Fiorentina, e soprattutto la Fiorentina fosse in un momento di forma tale da non perdere, da non sbagliarsi così. Ma la Juve è fortissima, e come dicevo qualche giorno fa, dopo Dortmund, secondo me ha guadagnato ulteriormente autostima nei confronti di se stessa e nei confronti anche della paura, del rispetto che sta al di fuori. L'altro giorno ha vinto una partita contro l'Empoli banale, una partita che ha vinto contro una squadra però che aveva fatto 8 risultati utili consecutivi, e la Juve con un po' di cambi, con un po' di riserve, con un po' di fatica, con le sue doti, con Buffon che quando serve salva il risultato, con Tevez che fa la differenza, ieri però ci sono stati altri, alla fine porto sempre a casa il risultato. A me sembra sinceramente che triplete, è chiaro che oggi è una suggestione molto forte, la Champions vive anche di contingenze, di un pizzico di fortuna nei sorteggi, e sicuramente il Monaco, facendo ovviamente i giuventini parlando di scongiuri, ci mancherebbe altro, ma insomma è meglio che affrontare Real Madrid, come dicevamo qualche tempo fa, e però poi essere bravi, la Juve secondo me ha questa qualità nelle due partite, secondo me se la gioca con chiunque, poi sì. Da qui a che possa vincere la strada è ancora molto lunga, sì. Però veramente chapeau, e chapeau soprattutto a Massimiliano Allegri, che ha dimostrato che non era un allenatore bollito, ha dimostrato che i problemi erano altri, ha dimostrato che la Juventus sa avere ancora fame, sa avere ancora quella rabbia, quella cattiveria, quell'arsenale che lo stesso Conte tutte le volte invoca quando serve, e ieri con molti che normalmente non sono attori protagonisti ha cambiato l'ordine dei fattori ma non il prodotto. Andiamo con il traffico. Luca Calamai, Pierluigi Pardo, state con noi naturalmente. Strade, Nando Sanvito per noi. Tutti convocati. Tutti convocati. Forse la Juventus aveva bisogno di un tagliando agonistico duro, cosa che non potrà essere il Parma sabato alle 18, e ha avuto questo tagliando agonistico duro nel modo migliore, cioè risparmiando le energie delle sue star, volenti o nolenti. Luca Calamai invece a Fiorentina viola di delusione, peccato semimortale quello di ieri, perché se per la Juventus si può sognare le notti magiche del triplete, per la Fiorentina la parola mini triplete, cioè qualificazione Champions League, Coppa Italia ed Europa League, a questo punto non è più coniugabile. No, ma soprattutto insomma, chi opera in area fiorentina sa benissimo che la necessità di consegnare un trofeo nelle mani di Diego Andrea Della Valle è un passaggio direi quasi indispensabile per far sì che questa proprietà possa trovare nuova linfa, nuovo entusiasmo, nuova voglia, no? 13 anni nemmeno un titolo vinto, e la Coppa Italia sinceramente dopo il 2-1 dell'andata sembrava l'occasione più semplice. Quello che è sorprendente è il fatto che ieri non è che è mancato un giocatore, è mancata una squadra, allenatore compreso, e qui si apre un grande dibattito, perché la giornata sbagliata di tutti può capitare, anche se è molto raro. Se invece tutto questo fosse un difetto di personalità, questo sarebbe molto allarmante, considerando appunto gli altri obiettivi che la Fiorentina ha nel mirino in questo finale di stagione, a cominciare dall'Europa League, che non dimentichiamolo, apre a chi la vince per la prima volta direttamente la fase a gironi della Champions. E il sorteggio non è male, la Dinamo Kiev è un avversario superabile, certamente non dalla Fiorentina di ieri. No, assolutamente. Poi c'è questo dato incredibile e assolutamente controtendenza: la Fiorentina vince il 54% delle partite in trasferta, in casa solo il 45%, questo è un altro dato illogico, no? Illogico calcolando che a molte di questi passi falsi casalinghi non sono fatti con piccole squadre ma con grandi squadre, quindi ciò cancella anche l'opzione di squadra che trova difficoltà a affrontare barricate difensive. È tutto molto strano, la Fiorentina ma deve ripartire, in questo caso il fatto di domenica di affrontare il Napoli in uno spareggio direi per il ruolo di antiromane nella corsa alla Champions, e 4 giorni dopo la Dinamo Kiev, credo che riapre subito, rimette subito in corsa tutti i motori, e la Fiorentina, lo ripeto, deve dimostrare di avere lo status della grande, altrimenti diventa solo un bel progetto divertente, gradevole, simpatico a tutti, ma che poi alla fine non stringe mai niente in mano. Grazie Luca, alla prossima. Un abbraccio a tutti. Grazie, grazie Luca Canamai, sei d'accordo Pardo? Sono d'accordo. Magnifica sono d'accordo. Incompiuta fin qui. Ma sì, diciamo che la Fiorentina in questi anni spesso è stata incompiuta, si è fermata sull'ultimo metro, come canterebbe De Gregori. E ieri onestamente era una situazione talmente ghiotta, talmente importante dopo 2-1 dell'andata, e soprattutto con tutte le sensazioni positive che erano arrivate anche recentemente, anche contro la Sampdoria l'altro giorno, insomma la Fiorentina stava bene, sembrava la partita fra due squadre che stavano bene, tutte e due in qualche modo condizionata dal risultato dell'andata. Invece si è visto che comunque nell'abitudine alla gestione delle grandi partite, delle partite senza un domani, la Juve è ancora anni luce avanti. È stata da questo punto di vista una serata veramente a senso unico. Io penso che la Fiorentina abbia, soprattutto in Europa League, ancora dei margini, che sono d'accordo sul fatto che la Dinamo Kiev sia un avversario superabile, secondo me più facile del Wolfsburg, certamente, anche se ci auguriamo certamente che passino tutte e due. E poi sì, bisogna fare questo scarto, questo salto di qualità, anche perché onestamente la lotta per il terzo posto è una lotta comunque ad handicap. La Fiorentina sì, non mi ha sembra molto lontano, mi sembra molto, anche perché la Roma vabbè ha ricominciato a correre, vediamo quanta benzina ha. La Lazio di benzina sembra averne tantissime, sono curioso anche di vedere la riprova questa sera a San Paolo per eleggere la sfidante della Juventus a finale di Coppa Italia. Salutiamo il bomber Pierluigi Cristiano Lucarelli. Ah, grazie. Ciao Cri. Ciao Cristiano. Tutti. Ciao Pierluigi. Come va? Bene, grazie. A Livorno, tra poco, già tempo di barchini a Livorno, no? Sì, siamo già alle prime uscite al mare. Sì. Senti Cristiano, per il Livorno ora di Panucci è stagione un po' tormentata, sesto 50 punti, meno 6 dalla Serie A, prospettiva playoff mi pare. Sì, direi di sì, anche se nel calcio non si può mai dire, però direi che l'obiettivo più reale penso sia quello di ottenere un buon piazzamento in vista della griglia dei playoff. Mentre i figli di Livorno sono alla stagione della consacrazione. Allegri, certamente per quello che sta facendo, e Mazzarri, magari anche per una rivincita postuma. Ma Mazzarri non è di Livorno, eh? Sì, è un po' anacquato, però. Dai. È un po' anacquato. Beh, Allegri sta facendo qualcosa di importante, perché comunque sia, al di là che allena, è vero che allena la squadra più forte in Italia, con il gruppo più forte, che onestamente la cosa che sorprende sempre di questa Juve è il fatto che anche quando è in emergenza, cioè gli manca dei calciatori importanti, non si fiangano mai addosso e riescano sempre comunque a mantenere squadre forti caratterialmente, forti proprio come mentalità, al di là delle assenze riescono sempre a essere squadra. E lui è stato bravo, perché chiaramente l'eredità non era delle più facili, e essere riuscito a fare tutto quello che ha fatto facendo, diciamo, pian piano, non in forma traumatica, ma ripartendo da dove aveva lasciato Conte con quel modulo, e piano piano cercando di aspettare con pazienza il momento giusto per poi cercare di proporre il suo, e mi pare che stia dando riproponendo il suo e non abbandonando del tutto il 3-5-2 che qualche volta anche riproposto. Quindi mi pare un'elasticità mentale che gli allenatori moderni devono avere, ecco. Il calcio di oggi non si può più andare avanti in forma integralista col proprio modulo, anche perché ci sono anche diversi moduli che si va ad affrontare, e quindi a volte si necessita di cambiare. Sì, Pierluigi, abbiamo detto molte volte, Allegri molto furbo, intelligente, ma furbo nel gestire tutta la stagione. Mazzarri, livornese, annacquato, va bene, invece integralista. Però si sta prendendo la sua rivincita. Ma sì, no, vabbè, sai come la penso su Mazzarri, non era soltanto colpa sua, e abbiamo le prove, insomma. Abbiamo le prove. La colpa di Mazzarri, secondo me, è dialettica, è di rapporto con l'ambiente, di non essere riuscito a creare questa empatia che invece c'era con Mancini, che c'è ancora con Mancini, e questo secondo me è un limite per un allenatore molto bravo che si candida a essere un grandissimo allenatore, che vuole lavorare in grandissime piazze, insomma, questa capacità anche di essere bravo a comunicare, di saper dire le cose giuste, di saper trasmettere i messaggi positivi, secondo me è il margine di crescita di Mazzarri, che per il resto per me è un grande allenatore. Volevo chiedere a Cristiano, da uomo di calcio impegnato anche politicamente nel passato, insomma uno che non si è mai nascosto e che perché a Livorno ha vissuto un rapporto molto intenso con la curva, inevitabilmente, che ha fatto una scelta di cuore, cosa pensa, non tanto anche sicuramente degli striscioni orrendi, ma anche della squalifica, che secondo me non è giusta, nel senso che secondo me non risolve, colpisce indiscriminatamente nel mucchio senza invece andare a individuare i responsabili. Sì, purtroppo per Luigi questo è un po' quello che succede, no? È come quando spesso e volentieri si proibisce le trasferte o si chiude gli stadi. Io continuo a dire che dalle altre parti fanno diciamo, hanno capito che il calcio è fatto di tifosi, il business è fatto di tifosi, e quindi fanno di tutto per agevolare l'accesso delle persone allo stadio, se vai in tutti gli stadi d'Inghilterra, ormai in Europa non è più solo l'Inghilterra, se vada giù trovi dei centri commerciali, trovi ristoranti per mangiare, trovi merchandising, compri le maglie, compri le sciarpe, compri qualsiasi cosa, quindi tutte le leggi vengono fatte per far affluire la gente allo stadio. In Italia mi pare che stia andando al solito nel percorso inverso, dove noi continuiamo a fare le leggi, a prendere provvedimenti che allontanano le persone dagli stadi, perché oggi non ti puoi più permettere di comprare un biglietto all'ultimo minuto, di decidere di andare alla partita all'ultimo minuto, è diventato tutto difficile, e quindi sulla base di questo è chiaro che di conseguenza è molto più semplice far così, no? Quando invece secondo me tanto Roma, Livorno, Napoli, Bergamo, cioè in ogni tifoseria d'Italia, no? Nessuna indiscriminatamente, io penso che chi di dovere sa chi sono i responsabili, certo, di qualunque cosa accada. Allora sì, bisogna prendere la responsabilità individuale. Ci sono quei 30, quei 20, quei 40, quei 50 che determinano una, diciamo, che condizionano un movimento, una curva, un gruppo. Quindi quando si vuole punire, andiamo a punire quelli che si sa, perché è inutile. È come se fallisce una società, prendiamo il caso del Parma, e arrestano il magazziniere, no? Dicono il magazziniere è responsabile perché portava la roba. E lo stesso discorso è lì, è in curva, c'è delle gerarchie, chi comanda si sa, lo sanno benissimo le questure, lo sanno benissimo tutti, basta mettere le mani dove vanno messe e vedete che si risolve il problema. Sì, sì. Ma se si punisce se si punisce tutta una curva, si chiude una curva perché in tre, forse due, hanno ideato uno striscione. Si chiude una curva, se ne lascia fuori 25.000, per sì, dire, no? Poi magari ce n'erano 10 che lo tenevano in mano e anche perché a quelli non sapevano neanche cosa c'era scritto. Però devi saperlo, Cristiano. Sì, però dico, e pagano quelli, ma io dico, c'è cioè qualcuno che le ha pensati e li ha preparati. Sì. Assolutamente. Senti, Cristiano, scusa, una curiosità proprio, perché nella tua carriera tu hai insomma incrociato Donetsk, l'Ucraina, abbiamo visto le immagini dello stadio bombardato, volevo insomma sapere che impressione ti avevano fatto, no? È successo qualche mese fa, però insomma comunque fa parte, immagino, della tua vita. Sì, ma anche se non sono stato moltissimo, sono stato solo 5 mesi, però fa sempre sempre effetto, no? Vedere certe immagini, perché te dici comunque, anche se per poco, però ci sono stati quei posti, li ho vissuti, l'aeroporto che è diventato l'oggetto di scontri e di contesa spesso e volentieri, o per le trasferte, o per tornare a casa, o per andare lì, comunque ci sono passato, quindi insomma fa sempre un certo effetto, perché onestamente quando ero là, anche se io parlo del 2007, non nulla lasciava presagire quello che poi purtroppo è successo. Credo che siamo in linea generale, non solo in Ucraina, ma in linea generale siamo in un momento molto difficile storicamente, perché ci sono grossi problemi, secondo me, di economie, di non solo in Italia, da tutte le parti, quindi secondo me i rapporti, purtroppo credo che ci si debba un po' abituare a queste e prepararsi, anche perché credo che questa situazione di difficoltà, di crisi, di famiglie disperate, di tensioni sociali. Abbiamo tanti guai, abbiamo talmente tanti problemi in questo momento, io mi auguro di no, però crediamo di sì, insomma, che la storia sarà lunga, Cristiano. Sì, la storia sarà lunga, non solo per l'Ucraina. Lunga, ma io, guarda, più che passa il tempo, più mi rendo conto che la situazione si complica. Io ho anche un'azienda, insomma, che è nel porto di Livorno, e insomma vedo quotidianamente un po' la crisi che si respira, i traffici che calano, quindi io purtroppo ho la sensazione che ci dovevo abituare a momenti di grandi tensioni un po' da tutte le parti. Grazie Cristiano, sempre grazie un piacere. Grazie Bomber. Gianluca Neri, personaggione, Pier. Potremmo stare a parlarci di tutto quanto per ore e ore, mentre adesso sentiamo parlare i ragazzi della borsa e poi i nostri ragazzi, i nostri convocati. 800 24 00 24, non ho ancora detto il numero, ma Marco e Fausto sono già lì. Grande mischia, Flipper impazzito. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Si ricomincia dai convocati. 800 24 00 24, numero verde. Marco Roma, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Niente, io volevo dire, ho visto la partita ieri sera e devo dire che effettivamente non si può dire niente. La Juventus senz'altro ha giocato bene, però mi sembra sempre di vedere un qualche cosa che non va, nel senso che secondo me il gol fatto da Salah dribblando praticamente 5 persone, se l'arbitro l'avesse convalidato, probabilmente la Juventus avrebbe vinto 3-1, ma sarebbe stato più giusto il risultato. Perché la devono sempre un pochino aiutare, questa Juventus che non ha bisogno d'aiuto? Ecco, questo mi dà veramente fastidio. È la cosa che mi dà veramente fastidio, perché non è possibile che una squadra che gioca così bene come gioca la Juventus debba avere sempre un uomo in più in campo, che è l'arbitro. E questo mi dà veramente fastidio. Sì, l'ha sottolineato anche Montella, forse era buono gol di Salah, secondo me era fallo, ma comunque su una partita finita 3-0 e in quel modo diventa anche difficile parlare di favori o di aiutini, onestamente. Sì, sinceramente sì, su questa stagione francamente mi sembra che ci sia poco da dire. Io, sapete, insomma, su Juve-Roma del 6 ottobre penso che Rocchi abbia sbagliato tantissimo da una parte e dall'altra, abbiamo parlato mille volte, sì. Ma complessivamente no, Pier, una partita persa 3-0 come quella di ieri, sicuramente in quella partita lì la Roma, fammi dire, perché no, sicuramente ha motivi di recriminazione. Poi però c'è una stagione, c'è un campionato pieno di episodi. Io l'ho detto mille volte, non ho visto in questa stagione un vento da una parte o dall'altra. Ho visto delle partite in cui finché c'era lotta la Roma ha avuto anche delle situazioni arbitrali favorevoli, in quella di Torino sicuramente no. Poi insomma da febbraio in poi di che stiamo parlando? Stiamo parlando di un campionato stradominato. Su ieri non lo so, insomma è chiaro, si può discutere certamente, si può discutere, ed è anche vero che quell'episodio lì, chiaro che era il terzo minuto, il quarto minuto, poteva condizionare la partita. Però francamente dopo un verdetto così netto mi sembra che diventa anche difficile guardare discutere. Quello significa proprio dare un messaggio sbagliato. Esatto, significa guardare il dito, non la luna, come al solito, secondo me, perché il disegno della partita non parla di quella che potrebbe essere una macchiolina, parla di altre cose. Fausto Torino. Buongiorno, grazie per la convocazione. Io ieri sera, e mi ricollego a quello che avete appena detto, vedo la partita e penso di aver assistito a un match. Beh, io appunto sono della Juve, quindi un match divertente, una partita giocata sicuramente bene, soprattutto da parte della Juve. E poi sento le interviste alla fine, mi sembra di aver assistito a una partita normale, regolare, e alla fine mi accorgo proprio che a Montella glielo tirano fuori dalla bocca per forza questo aiutino, questo favore, questo. Partono una serie di domande tendenziose, insinuanti un favore presunto dell'arbitro, e alla fine si viene fuori che anche ieri sera tutto sommato la Juve l'aiuto l'ha ricevuto. Allora io mi chiedo, questo chi avvantaggia, ricollegandomi anche ai discorsi delle curve, della gente, perché ci sono persone normali e persone meno normali purtroppo, no? Questa cultura del sospetto, chi avvantaggia e perché continuiamo a portarla avanti? Quella è la mia domanda. No, perché ci lamentiamo? La cultura del sospetto, prima che mi dimentico, voglio anche dire una cosa invece di segno assolutamente contrario, cioè l'intervento di Morata alla fine, al di là della polemica col pubblico, l'intervento di Morata è un intervento che gli farà saltare la finale, quindi e secondo me non è da rosso, no, l'intervento era giallo, cioè. E quindi voglio dire, se uno volesse stare lì a fare della dietrologia, potrebbe dire, ecco, tolgono un attaccante più caldo assieme a Tevez per la finale alla Juve. Per favorire Lotito, per favorire magari cioè, mi sembra veramente, ripeto, in una stagione come questa, che è dominata da una squadra in Italia, mi sembra che ci sia poco da discutere. Poi nella partita secca ci può stare. In generale sul discorso della della cultura del sospetto, noi siamo malati in Italia, su questo non ci sono dubbi. Poi ci sono allenatori anche all'estero, lo stesso Mourinho, che questa ma anche Benito, questa strategia la utilizza. Secondo me questo non è che siccome c'è la cultura del sospetto poi ci sono tafferugli ci sono perché ci sono frange di criminalità infiltrate o comunque che frange di persone anche magari che nascono per bene ma che si fanno sentire dentro in questo tipo di atteggiamenti. Non mi sento di dire che c'è una correlazione, che ci sia una correlazione così netta e così evidente. Sicuramente la cultura del sospetto non fa bene e ci sono esempi di squadre che probabilmente hanno pensato troppo recentemente ai torti arbitrali presunti o veri. Però, sai, diventa anche un grande alibi, eh? Certo. Diventa anche il grande paravento dietro cui nascondere errori tecnici, errori di mercato, strategie eccetera eccetera, quindi diventa un enorme paravento dietro al quale ci sta tutto e molti abboccano semplicemente. Io l'ho sempre interpretato così. Volete sentire Montella cosa ha detto a proposito di questa storia? Va bene? E tu hai dubbio che sarà non faccia fallo su Padoini in questo caso? Questo si può pensare da quello che tu quella dici, forza. Sì, secondo me no, con quella forza, il tuffo che ha avuto, per giustificare il tuffo del giocatore, però accettiamo tutto, come abbiamo fatto tante altre volte, insomma. Secondo me è stata vinta anche in relazione agli episodi che non sono stati proprio fortunatissimi per noi, e perché poteva venire fuori una partita diversa, no? Se avessimo segnato prima noi, come è successo, ma... Però non bisogna assolutamente trovare in questo il colpevole. Io personalmente accetto la sconfitta, faccio complimenti all'avversario e ho la testa già nella prossima partita. Dunque, oggi sui giornali c'è anche un altro argomento, in particolare su Gazzetta e Stampa, che avrà fatto trasalire i tifosi dell'Inter più nostalgici. Legarsi all'Inter vuol dire essere pronti a vivere una vita emozionante. È come uno che fa un viaggio d'avventura, insomma, per cui deve avere sia, non è un viaggio comodo, è un viaggio che può essere scomodo, ma che ti dà tante di quelle emozioni che ti rimane in mente. Credo, spero che la famiglia rimanga in mente, soprattutto mio padre, come un momento di storia molto importante, decisivo, devo dire, per portare la squadra a livelli internazionali, essere conosciuta e amata anche nel resto del mondo. E mentre un comico faceva ridere, io ti ho sentito che piangevi, e allora sono tornato, ma tanto già lo sapevi che tornavo da te. Ho letto anch'io stamattina queste cose, non è nulla è vero di quello che ho letto, io sostengo l'ottovero e spero che faccia bene, come ci sono tutti i presupposti, perché si sta sacrificando tantissimo. Che ritorno da te senza niente da dire, senza tante parole, ma con in mano un raggio di sole per te. Le parole che avete sentito prima erano naturalmente d'archivio, l'ultima invece è l'ultima dichiarazione di cronaca, no, sto a conto io, cosa simpatica ma nulla di vero. Evaristo Beccalossi, buongiorno, tu ci hai creduto? Ciao, buongiorno a tutti. Ci credevi? È successo che sono fuori Milano, non so se sono fuori città o fuori, no. C'è scritto oggi sulla Gazzetta e sulla Stampa, Moratti che voglia di Inter, clamoroso piano per tornare con Pellegrini e Tronchetti, Provera, eccetera. Ti giuro, guarda, sì. Non sono ancora riuscito a leggerlo perché sono fuori per lavoro, quindi... Guarda, ormai tanto non vale più. Ha detto che non questa, perché Moratti ha detto che no, sostengo Toir. Però è una bella suggestione, no, in un momento così. Ma non lo so, ma cioè, la famiglia Moratti è la storia dell'Inter. Però credo che quando lui ha deciso appunto di dar fiducia a Toir, sapesse cosa faceva, quindi non mi preoccupa. Chiaro che sono due gestioni diverse, perché la famiglia Moratti, insomma, è la storia dell'Inter. Toir è arrivato cercando appunto di fare risultati e non ci sta riuscendo. E adesso abbiamo un po' di problemi, però anche io non passo né dalla troppa euforia né dal troppo pessimismo. Cioè, bisogna lavorare, costruire. L'allenatore sa quello sa quello che fare, quest'anno è un anno così, però bisogna gettare le basi, capire soprattutto chi può far parte dell'Inter del futuro per cercare di portare l'Inter ad alti livelli. Quindi Pier, lo battezziamo un pesce da aprire fuori stagione, no? No, lo battezziamo in maniera diversa, secondo me, perché qui no, ciao, qui la cosa, ciao Ever, e qui la cosa è molto semplice, cioè Boratti non sarebbe mai andato, è come quando, non mi ricordo se era il PDS, andiamo a quel periodo lì, forse il PDS, c'era il governo ombra, no? Sì. C'era l'opposizione, c'erano i ministri ombra, e qui Moratti è il presidente ombra dell'Inter. Lo è di fatto, non è che cattiveria, è semplicemente che chiaramente è una figura talmente importante, talmente prestigiosa nel mondo nerazzurro che finisce anche soprattutto nei momenti difficili per poter essere ingombrante, perché continua comunque a parlare, perché continua comunque a essere visto giustamente dai tifosi come il presidente dei trionfi degli ultimi anni del triplete, e quindi non so dirti neanche se questa cosa di oggi già smentita sia realmente il frutto di una sua idea o in qualche modo anche il desiderio e la suggestione di pensare a un'idea di questo tipo, no? da parte della stampa, da parte della... Sì, no, non dimentichiamo che Moratti alla fine sceglie anche gli allenatori, perché Mancini è una scelta grosso modo sua. Quindi alla fine... non ha la maggioranza, poi oltretutto ovviamente Tohir non è un presidente presente da questo punto di vista, fa quello che può, un po' come Pallotta nella Roma, no? Hai visto che scarto c'è stato fra le prime prese di posizione abbastanza distanti di Pallotta e quello che ha detto ieri, no? Sì, certo. Come uno che non sapeva quasi, sì, o comunque viveva l'episodio come una cosa secondaria, e uno che è andato ad approfondire e improvvisamente se ne esce anche con quel linguaggio di così straordinaria violenza, straordinaria forza, no? Ed efficacia. È questa cosa qui, sono presidenti che vivono lontani, non hanno il polso della situazione, mentre Moratti tutti i giorni va nel suo ufficio, ha tutti i giorni 20 colleghi nostri che stanno lì con le telecamere e i microfoni a fargli le domande, qualcosa dice perché è una persona educata oltretutto, quindi non è neanche uno che non parla, sì. Però questa cosa alla fine può diventare un ingombro. È chiaro che Moratti è stato un grande presidente, insomma, gli interisti come è chiaro che poi in momenti, sai, nei momenti di crisi la nostalgia ti viene sempre, questo è un grande classico. Vi chiedo, Pierluigi Evaristo, un attimo di pazienza, traffico, poi chiudiamo il discorso sull'Inter. Ora sei rimasta sola, piangi e non ricordi nulla. Tutti convocati. Ma è vero che lei manca ai tifosi e a lei non manca l'Inter? No, mi può mancare l'Inter, ma mi manca come tifoso, nel senso che vorrei avere magari più soddisfazioni, ma anche Tohir vorrebbe averle, quindi credo che... No, tutto quello che ho letto stamattina non è vero, insomma. Grazie. E nessuna possibilità di rivederlo? No, arrivederci. Arrivederci. Evaristo Beccalossi. No, tu... mi interessava il tratto su Trapani, sono le macchine. No, ma Moratti è la storia, cioè la storia dell'Inter. Però e poi quando c'è che... grande depressione, dicevo prima, come momenti come questo, sì, ti viene nostalgia. Pier ha fatto un'analisi attenta e attenta precisa, però il futuro, cioè quando ha scelto Tohir, è chiaro che a livello di tifoso possiamo essere tutti un po' così... in questo momento negativi, però l'Inter non deve essere negativa, ci sono delle difficoltà, bisogna programmare il futuro è con Tohir, e quindi... E anche con Mancini, secondo te, o è giusto metterlo in discussione? Va. No, io credo Mancini non vada messo nessun modo, anche perché conosce bene la realtà della squadra e della piazza di Milano. Secondo me bisogna agire sull'importanza di giocatori che devono avere gli stimoli per far parte dell'Inter del futuro. In questo momento bisogna essere lucidi, sereni e soprattutto gettare le basi per portare l'Inter a essere competitiva. Pier, vuoi chiedere qualcosa al Begolo o ci andiamo a guidare verso Trapani? Che vai a fare a Trapani? Bello te? No, volevo fare un giro al mare e ho scelto una località vicina, quindi da Milano. Anche Trapani, mi interessava il traffico. Ciao Beck. Ciao ragazzi, ciao, buon lavoro, ciao, un abbraccio. Ciao. Prima che ci scordiamo, perché poi qui ormai chiaramente c'è grande suscettibilità, però magari lo diciamo una volta per tutte, so che ieri ci sono stati i cori su, credo, su Pestotto e su Scirea. Sì, esatto. È sempre la stessa cosa, è sempre la stessa cosa. Poi c'è sempre quello che ti dice, ah, oggi non lo dite. No, è sempre la stessa cosa. Ci potrà capitare delle volte di non dirlo, ma tutte le volte che viene offesa la memoria di qualcuno o viene evocata una sofferenza o una violenza, non siamo più nell'ambito dello sfottò, che è una cosa bellissima del calcio, e nemmeno nell'ambito del baffa o, o della rivalità più, anche più becera certe volte, che però insomma non andiamo a teatro. Ecco, quindi questo discorso vale per ieri, vale per sabato scorso, sì, ma varrà purtroppo altre volte. Ma io mi domando quello tutte le volte, però, perché devo fare pubblicità a questi? Perché devo. No, poi lo sappiamo che ci sono stati, perché leggiamo i giornali, perché guardiamo le partite, come fate voi, ogni volta a denunciarli, ogni volta questi qui a casa che ridono. Ah, avete sentito, hanno i nostri cori, li hanno ripresi. Guarda, io ti posso dire una cosa. Oggi ho volutamente tralasciato il discorso sugli striscioni. Avevamo tra l'altro un'intervista di Ilario Ricci interessante all'ormai famosissimo avvocato Pisani, che si scaglia contro la Roma chiedendo, non so su quali basi, 5 punti di penalizzazione. Ho avuto modo di parlargli anche l'altro ieri in altra sede, in altro contesto. Ho deciso di non mandare questa intervista perché mi sembra che si stia seguendo la via sbagliata di una sovraesposizione mediatica pazzesca, lanciando in modo errato, secondo me, benzina sulle teste calde del tifo, l'esatto opposto di quello del risultato che si voleva perseguire. Non è che prima non ci fosse la benzina, purtroppo, è successo la cosa sabato, ovviamente molto grave, non è la prima volta che è successo, striscioni pessimi li abbiamo visti purtroppo in ogni parte d'Italia, quindi voglio dire, questo vale purtroppo per tutti. E in generale il problema è che continuiamo noi a chiacchierare di questa roba qui, ma chi deve intervenire, che non sono tanto le società, perché le società possono avere sicuramente le loro debolezze, sinceramente l'altro giorno, ma la Roma, al di là del fatto che se avesse fatto l'annuncio, ho letto il dispositivo della sentenza, se già avesse fatto l'annuncio a togliere lo striscione, probabilmente già si sarebbe salvata dal punto di vista tecnico, perché sarebbe stata considerata una scusante, no? Cosa che andava fatto, lo striscione andava rimosso, eccetera, quindi eccetera. Sicuramente era l'unica sola cosa da fare. Ma in assoluto, il signor Pallotta che sta a Boston, ma anche gli stessi dirigenti della Roma che stanno in tribuna, non hanno margine per intervenire su quella roba lì. Hanno semmai il margine di alzare la testa, come tutti gli altri dirigenti delle società italiane, e accompagnare però le istituzioni. Sono le istituzioni che decidono di intervenire per risolvere il problema, e finché invece non si andrà a colpire soltanto le persone che sono state responsabili, ma colpire interi stadi o interi settori dello stadio, si continuerà a aggiungere casino. L'anno scorso abbiamo visto mille volte le curve chiuse. È cambiato qualcosa? Sono finiti? No, ma avevi dei dubbi? Ma guarda che Lucarelli prima ha detto una cosa sacrosanta, cioè basta con queste chiusure, basta con questi divieti, perché secondo me ottieni esattamente il risultato contrario. Io sono per eliminare i tornelli, la tessera del tifoso, per fare degli stadi civili. Le trasferte organizzate a me non piacciono, cioè uno vuole andare a vedere la sua squadra in trasferta, deve essere libero di andare lì, prendere il biglietto e andarsi a sedere, e poi c'è la responsabilità individuale. Tanto non è difficile, se tu vuoi applicare un concetto di responsabilità individuale, vederlo in faccia e andarla a prendere. Diciamo ieri con Giovanni, il Chelsea, d'accordo, però con un paese che funziona, con una polizia che funziona, con uno Stato che funziona, ha beccato il video del tifoso razzista che non faceva entrare il ragazzo di colore in metropolitana e l'ha cacciato. Sì, sì. Ma questo è responsabilità individuale, no? Perché hai delle forze dell'ordine, una magistratura e un sistema Stato che funziona e ti consente di farlo rapidamente. E questa cosa purtroppo in Italia non c'è. Io quello che penso della squalifica, penso che l'altro giorno il 99% dei tifosi della Roma, il 99,9% dei tifosi della Roma fosse schifato da quegli striscioni. Oggi a Roma il dibattito si è spostato per alcuni su i due pesi e due misure, che alcuni dicono che ci sono, perché per Superga avete dato 25.000 euro, avete dato 20.000 euro, e stavolta invece viene chiuso il settore. E mi sembrano discorsi abbastanza pulciosi. Però è il discorso che c'è oggi. Il tarifario finisce per buttare tutto in caciara. Certo, qui dobbiamo lavorare. Vedi che anche dall'altra parte, cioè dalla parte lesa, l'avvocato che mi dice, ma è il club che ha responsabilità e devono prendere 5 punti di penalizzazione, secondo me quello è un versante sbagliato, come la sovraesposizione mediatica che tutta questa vicenda, i protagonisti di questa vicenda stanno avendo. Facciamo il tempo a parlare con Roberto da Brescia per venire a salutarti, sai? Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno, telefono da Brescia. A proposito di questo argomento, io mi domandavo, onestamente, ma è così difficile riuscire a scovare queste persone? La responsabile per le società basterebbero che facessero qualcosa di concreto. Per esempio, vanno a zoomare una fotografia, la mettono a quelli che hanno tenuto lo striscione in mano, per esempio, si comincia da lì, li mettono su una pagina comprata dalla Gazzetta dello Sport. Ma al di là di quello, ma secondo lei è difficile con gli apparati di sicurezza, di videocamere, di polizia, ma banalmente con internet, secondo lei è veramente così difficile andare a prendere queste persone che erano il giorno dopo erano a fare la pasquetta, a fare la grigliata e se la ridacchiavano? Quindi non è che servono tanti strumenti di indagine, eh. Penso che per chi fa quel lavoro sia una roba abbastanza semplice. Pier, voglio farti sentire la solita musica. Posso? Vai. Questa la sai però, eh. Chi lo sa che faccia, chissà chi è. Dai, questa è facile. Chi lo sa che faccia, Lupin. Era che un momento fa. È straordinaria. Ti piace, eh? Sapevo. Ogni porta si aprirà, chissà perché. Ah, te la dico, te la faccio sentire. Lupin, dai, Lupin. Perché te l'ho fatta sentire? Perché? Perché? Perché notizia di oggi dall'Inghilterra riguarda Andrea D'Ossena. Sì. È stato arrestato lunedì con l'accusa di taccheggio al grande magazzino Harrods di Knightsbridge. Il giocatore Leighton Orient, ex Liverpool e Napoli, era in compagnia della fidanzata al momento del fermo. Dopo essere stata condotta alla stazione di polizia, la coppia sarebbe stata poi rilasciata in attesa di ulteriori indagini, come confermato da un portavoce della polizia locale. Lui avrebbe detto: sono dovuto scappare fuori dal grande magazzino perché il bimbo piangeva e io non ho potuto pagare la bresaola e il miele. C'è la Winona Ryder, no? È passata, mercata. Ma ce n'è una fila, sai. La Manadou che la Manadou, vero? Ha azzuttato €200 di souvenir a come si chiama? Euro Disney. Poi c'è Bielanov che invece era diventato un professionista. Era diventato un professionista del taccheggio, con la moglie ne ha fatti di tutti i colori. Adesso vediamo, speriamo sia un equivoco da chiarire con il conto della bresaola e del miele, Pierluigi. Ci manca solo quello. Ciao Pier. Ciao. Ci sentiamo domani. Se gioielli e denari e tesori non ho. Ragazzi, noi invece ci risentiamo dopo il giornale radio, altra mezz'ora per stare insieme, per parlare di tutto quello che vi pare. 800 24 00 24, compresa bresaola e miele. Che dire? Arrieccici. Convocati. Da Marco che scrive che se Andrea D'Ossena la scampa dall'accusa di taccheggio al grande magazzino Harrods di Londra, va con la figlia al concessionario Mini. D'Ossena ha detto: ah, bambino fuori piangeva, ho preso il bresaolo e il miele, non sono riuscito a pagare, sono scappato fuori, ma la rivederò al più presto. 800 24 00 24 per dire quel che vi pare. Mario da Verona, di cosa vogliamo parlare? Buongiorno. Buongiorno a lei. Vorrei ritornare un attimo alla partita Fiorentina-Juve di ieri sera. Io l'ho vista e non concordo molto con la vostra analisi. Intanto mi è sembrato di vedere un primo quarto d'ora che la Fiorentina non è stata assolutamente inferiore alla Juve e l'ultimo quarto d'ora che praticamente si è giocato una porta sola. E poi oltretutto il finale Juve sarà nettamente superiore perché al centrocampo ha dominato, però detto questo, quello che mi ha fastidio è stato tutta una gestione della partita un po' da parte della terna arbitrale non proprio asettica, direi. Per esempio, a parte il gol si può discutere, e poi ecco, vorrei correggervi dicendo che se uno va in vantaggio al sesto minuto io penserei di vedere un'altra partita. E successivamente ci sono stati diversi falli direi piuttosto da munizione nella gestione, per esempio, dei cartellini, che chiaramente la Juve è già squadra forte, come spesso capita, una gestione dei cartellini o piccoli episodi che indirizzano la partita, e questo è ovvio. Ma a me l'errore di Mario, a me l'errore di gestione del cartellino mi è sembrato quello di quello finale che toglierà la Juve Morata per intanto il fallo è io ero allo stadio, io guardi, sono a Verona, sono abbonato a Firenze, però cerco di essere sempre obiettivo sulle analisi, e lì è entrato a fargli male proprio, e tra l'altro c'era un fallo su Diamanti d'ingresso in area a parte di Chiellini. Sul terzo gol Chiellini ha battuto due difensori della Fiorentina lasciando libero Bonucci, nessuno ha detto niente, cioè su queste cose bisogna essere puntuali, cioè la Juve è stata superiore da questo punto di vista, però su certi episodi probabilmente la partita sarebbe cambiata. Per esempio sulla ripartenza fiorentina c'è stato un fallo da dietro che Mario, possiamo tirare fuori tutti gli episodi che vuole, possiamo polverizzare la partita finché vuole. Allora, primo quarto d'ora la Juventus è passata in vantaggio al 21esimo, primo quarto d'ora è stato una classica fase di studio. Se poi su una partita come quella di ieri vogliamo dire che la colpa del 3-0 è di Massa di Imperia, allora abbiamo ragione quando diciamo che non si perde mai, e quando si perde è colpa dell'arbitro che ha fischiato. Insomma, la Fiorentina ha giocato una brutta partita ieri, ha giocato una pessima partita per approccio e per gestione. La colpa non è di Massa di Imperia e nemmeno della gestione dei cartellini. La colpa sta nel fatto, le colpe stanno nel fatto che la Fiorentina non è riuscita a giocare la gara che doveva. Non penso di poter dire che uno 0-3 sia come quello di ieri sera sia commentabile alla luce della gestione di cartellini in Massa di Imperia. Poi sul fallo di Morata io non so, abbiamo opinioni differenti, secondo me non era da espulsione diretta. Poi detto questo la partita non è stata decisa dall'arbitro, piuttosto dall'atteggiamento della Juventus. Questo è il mio parere, però se voi volete dire che è colpa dell'arbitro, tenetevi pure la vostra opinione, che va bene così. Gino Latina, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo fare sapere la vostra opinione sulla questione del derby rinviato Frosinone Latina, che per 20 cretini hanno spostato la partita. Sapete voi questa cosa? Letta, sì, non mi sorprende, perché ormai nulla mi sorprende su quello che accade intorno alle partite di calcio. Insomma, possiamo rifare gli stessi discorsi, volete che rifacciamo? Non mi sembra il caso dei tifosi, dei 20 tifosi che tengono ostaggio la società, di quelli che fanno il tifo di professione, saranno 20 cretini a Latina Frosinone, saranno 50... da un'altra parte, saranno 1000 a Roma, sono le solite dinamiche che conosciamo bene, e possiamo tornare a fare gli stessi discorsi sul chi sono questi e dove sono oggi e che cosa stanno facendo. Fabrizio D'Ancona, buongiorno. Dottor Genta, buongiorno, un piacere sempre sentirla. Io innanzitutto le volevo dare 10 per la risposta al penultimo ascoltatore, ma come si fa a telefonare indipendentemente dal tifo a trovare una giustificazione a un 3-0? La Juve, e questo indipendentemente, ma l'inciso spiega tutto, che hai usato, indipendentemente dal tifo è difficile, telefonare per te. La Juve ieri sera ha giocato da grande squadra, come non capitava da mesi, da anni, anche come modo di preporre il gioco, e basta, no? Da mesi e anni mi sembra tante, Fabrizio. No, però voglio dire, con la capacità che c'è avuto ieri sera, era un pezzo che non si vedeva in un campo così difficile. Io comunque voglio dire, quando sento ascoltatori che chiamano, che si appellano allo scoglio dell'ultimo sassolino, ma è una il calcio è bello perché è vario, però voglio dire, cioè, a trovare sempre una giustificazione, vabbè, questa è una caratteristica italiana, lasciamo perdere. Io ho telefonato per dire due cose solo. Allegri, Conte, io non è che sono simpatico ad Allegri, mi sta simpatico Conte, però Conte, adesso viene fuori il discorso che Conte ha fatto delle grandi annate perché comunque aveva sempre grandi giocatori. adesso si vede con la nazionale italiana, forse ci qualificheremo, ma un girone come il nostro lo dovevamo spazzare via, invece ancora siamo lì con, Ma guardi, ce ne sono altri, siamo in buona compagnia, perché ci sono molte altre grandi, Germania compresa, che stanno facendo molta fatica, e credo che la ragione stia nella formula di molto lassa di queste molto annacquata di queste qualificazioni europee. In un modo o nell'altro le grandi nazionali passeranno tutte, compresa quella italiana. Non starei a levare meriti a Conte, che ha fatto delle grandi cose alla Juventus. Io starei piuttosto a dire che Allegri sta vivendo la stagione della sua grande consacrazione, perché l'ha gestita fin qui, e siamo arrivati ormai all'8 di aprile, dall'inizio a ora, in modo semplicemente perfetto. Saluto e ringrazio il professor Giorgio Terruzzi. Ciao Giorgio. Ciao, come stai? Bene, voi? Non c'è male, non stiamo a dibattere sul tifo e arbitri e tutte queste cose, e poi quando ci sono gli striscioni mi tirano fuori la storia del rugby, ma il rugby non succede, ma per forza, è come paragonare le mele con le pere, no? Sì, è una roba un po' diversa. Senti, oggi sul Corriere della Sera te la prendi, non so se è la frase giusta, con le due seconde guide di McLaren e Mercedes, Rosberg e Raikkonen, scrivendo grosso modo: ragazzi, datevi una svegliata. Non è che me la prendo, secondo me rischiano di più, perché se si tratterà, adesso è un po' presto, di un dualismo, cioè di un conflitto. La Mercedes non può più fare come l'anno scorso, liberi tutti, a bel momento deve scegliere uno dei due, e lo stesso deve fare la Ferrari se insegue. E nelle prime due gare, questi due che già venivano da due stagioni da sconfitti nel confronto dei compagni di squadra, sono già dietro, quindi rischiano, più Rosberg forse, ma insomma a differenza di altri momenti, di diventare veramente dei secondi, no? Devono muoversi, cioè devono dare un segno immediatamente diverso, e devono essere più forti dei rispettivi compagni. Hamilton ha fatto due pole, ha vinto una corsa, Vettel ha vinto una corsa, ha fatto un podio, insomma è sempre davanti in prova. Posso dire che non vedo per loro un grande futuro. Stiamo tutti, adesso è ovvio che siamo già proiettati sulla Cina, non vediamo l'ora che inizi questo weekend, questo Gran Premio. Io non vedo un grande futuro né per Rosberg né per Raikkonen. Per Rosberg perché Hamilton mi sembra molto più forte, molto più cattivo, molto più duro dell'anno scorso, forse come che si è tolto lo scimmione dalla spalla e secondo me non lo prende più. Al contrario, quell'altro, il biondino, mi pare un po' depresso per come sta in pista. E Raikkonen ha fatto un garone in Malesia, secondo me non tanto distante da quello di Vettel. È partito ovviamente come sappiamo, però anche lui ha una psiche delicata. E insomma, è arrivato quarto in una gara dove, con una macchina così, essendo quattro le macchine in pista, perché non dimentichiamo che sono quattro macchine in pista, non c'è più la Red Bull, non c'è la McLaren, quindi andare a prendere il quarto posto è relativamente più facile. Con questo dico che ha fatto una bella corsa, ma il suo compagno ha vinto, il suo compagno è partito in seconda fila, lui è partito indietro. Non ci sono sempre delle scuse, no? L'anno scorso aveva dei motivi seri, cioè aveva una macchina che non riusciva a guidare a suo dire, ha preso una piallata da Alonso clamorosa, veramente imbarazzante. Quest'anno lui è il primo a dire che la macchina la sente meglio, e con Vettel sta in sintonia, quindi non è una personalità che patisce, insomma tocca a lui, no? Quindi erano giustificati i rimbrotti che si è preso prima della gara, dopo il sabato delle qualifiche, da parte del team? Beh sì, forse dentro il team le comunicazioni magari potrebbero essere anche più protettive, non lo so, non sta a me dirlo. Dico semplicemente che al di là di quanto gli viene detto o di quello che non gli viene detto, delle simpatie, delle tifoserie, insomma è un po' tanto tempo che delude un po' Raikkonen. Soprattutto non può permettersi di fare un'altra stagione così, insomma io se fossi in lui sentirei un po' di prurito, perché gli tocca a un certo punto, no? Beh, ci sarà un bel momento in cui dici vabbè, adesso fammi vedere chi sei e quello che vali, per quello che ti pago e per quello che hai dimostrato di essere, ecco, in fondo, appunto, no? Ecco un po' questo il discorso. Qual è il peso specifico del muretto nell'avvio di stagione della Ferrari? Ma guarda, credo che il peso specifico rilevante lo dia un progetto finalmente felice. se le macchine funzionano tutto il resto va meglio, no? Probabilmente non si finisce mai, cioè, io credo che le persone che sono lì stanno facendo bene e quindi hanno un peso rilevante, come giusto dare ogni volta che ci siano di fronte dei buoni risultati. Però credo che il gruppo di lavoro, che è l'unica cosa che non è cambiata sostanzialmente, salvo togliere un progettista che è Nick Tombasis, che comunque ha fatto questa macchina, ha fatto il grosso di questa macchina, credo che avessero bisogno di tempo per migliorare una macchina che è nata malissimo, quest'anno è stata molto migliorata. Nella parte di motore, secondo me, moltissimo. Sì. A differenza, c'è questa cosa importante, che la Ferrari è cresciuta, ma sono scomparsi due squadre competitor, sì, certo. di primo piano, perché doppiare la Red Bull è un evento, due McLaren che partono e chiudono in ultima fila è un evento, no? Quindi insomma ci sono una serie di circostanze che danno, come dire, serenità e qualità al lavoro che poi viene fatto di gestione dei piloti, della squadra, dei tecnici. Resta stanno a capire come da quello che era l'anno scorso un immondezzaio, come era quella macchina, possano nascere questi fiori qui. È proprio lo scarto grande, al di là del fatto che sono spariti i competitors. Tu vedi la Ferrari in gara, non è poi lontanissima da quelli più forti, non è poi lontanissima dalla Mercedes. È vero, dico una cosa che sembra un paradosso, ma è un dato di realtà: la Ferrari era in corso per mesi. Ulteriormente, cosa che aveva già cercato di fare Newey, è il dio in terra. Newey ha preso un giro dalla Ferrari con la Red Bull. È un discorso che abbiamo fatto forse altre volte, no? Di Costa che va via dalla Ferrari e progetta questa macchina, questa Mercedes. Insomma, non è che ci sono gli scemi e i furbi, ci sono dei tecnici di primo ordine che certe volte ne imbroccano, certe volte la sbagliano. Sì. Ecco, credo che sia un po' questo il punto, semplificando ai massimi una serie di concetti complicatissimi. Sì, c'è Luca da Forlì che scrive che Vettel sta tracciando la rotta verso la vittoria, portando un cambio di mentalità che non si vedeva in Ferrari dall'autunno 95-96. Non credo sia solo Vettel. Ma no, ragazzi, cioè Vettel è un bravissimo pilota, è un bravo ragazzo, è uno che ha capito cosa dire, cosa fare. È anche un ragazzo furbo, un ragazzo intelligente. Furbo, intelligente, ma non è che... cosa ha fatto? Ha trovato una macchina che gli permette di fare Vettel. No, l'anno scorso la stessa persona aveva una macchina che gli faceva fare brutta figura addirittura nei confronti di un compagno di squadra molto più giovane che non ha vinto niente, no? Non è così, non è che poi adesso se citi Alonso immediatamente fai la dietrologia, però penso che sia realistico pensare che Alonso con questa macchina faceva risultati simili a Vettel. Ma io lo penso profondamente, caro Giorgio, penso profondamente. Poi Vettel bravissimo perché gli dai una macchina che vale 100 e lui te la guida da 100 e non da 99 o da 97, certo, o da 80 pochi, come fa Vettel. Pochi piloti che sono di quella fascia lì, no? Se gli dai 100 danno 100, non è il solo. Aggiungo che se un pilota da 100 trova una macchina da 4, Alonso quest'anno è l'ultimo. E Alonso l'anno scorso ha trovato una macchina da 4 e tutto sommato qualcosa ci ha tirato fuori ha tirato fuori un 5,5. Alonso appartiene invece alla categoria dei piloti che è capace di tirarti fuori qualcosa in più rispetto alla macchina che guida. Un'ultima cosa, Giorgio, quanto è lontano il paradiso disegnato da quelli della Ferrari? Non mi ricordo se erano 3 o 4 vittorie in stagione. No, non è per niente lontano, anche se è un po' presto, secondo me. Bisogna aspettare 4-5 corse per avere una misura. Credo che poi bisogna vedere cosa fa la Mercedes, nel senso che in Malesia hanno messo insieme un filotto di errori clamorosi. Non so se sono fragili sotto attacco o hanno preso una giornata storta. Bisogna vedere questa cosa qua. Secondo me sono ancora avanti e possono forse gestire in condizioni normali, cioè gestire un mondiale a vincere, che poi la Ferrari possa fare sia lì, perché è la seconda forza conclamata, diciamo così. Quindi in un anno delle opportunità saltano fuori di sicuro, quindi secondo me il paradiso loro, cioè il mantenere o superare le ipotesi di prestagione, lo darei per sicuro, poi insomma con ampi margini di prese anche da parte di chi può salire, no? Perché magari la Red Bull migliorano la macchina, vengono avanti, magari la McLaren, però la McLaren parte da molto indietro. Sì, certo. No, certo. Ecco, non la Williams, secondo me la Williams è una macchina che è inferiore allo scorso anno, secondo me non ha margine di miglioramento. Pure i denari per fare, sì, più difficile, secondo me. Grazie Giorgio, grazie a voi. Grazie Giorgio Terruzzi. E stiamo aspettando, è un weekend motoristico che ci darà la Cina per quanto riguarda la Formula 1 e il Texas per il motomondiale. In entrambi i casi si parte da un trionfo italiano quale quello dell'ultima volta, fare meglio è impossibile. Lo diciamo, facciamo la metà? No, siamo ottimisti, facciamo i due terzi. 800 24 00 24, numero verde. Allora stasera c'è l'altra semifinale di Coppa Italia, si gioca a Napoli, Napoli-Lazio. Ho letto prima un'ipotesi di formazione del Napoli e mi è sembrata finalmente quella giusta. Gioca Gabbiadini, gioca Higuain, la difesa è al suo posto, il centrocampo pure, niente nessuna particolare invenzione. Si parte dall'1-1, Benitez e Pioli. In classifica, la Lazio, giochiamo contro di loro domani una partita di Coppa per arrivare in finale, la seconda finale consecutiva, credo che può essere un buon traguardo se lo facciamo, concentriamoci in questa partita e dopo pensiamo alla Fiorentina e alle altre partite. Io, sulla carta le percentuali sono sempre difficili da fare, noi sappiamo che dobbiamo segnare, ma abbiamo anche la consapevolezza di avere queste qualità, di avere queste possibilità, perché siamo una squadra che crea e che può avere nelle giocate dei singoli anche delle soluzioni vincenti. Anche il Napoli è una squadra che sa segnare, ma ha anche dei punti deboli, ha anche subito parecchi gol in questa stagione. Noi dobbiamo essere bravi a stare in partita per 95 minuti. O magari di più. Luca da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Allora, bellissima giornata di sole, complimenti per la trasmissione, volevo fare una domanda e una considerazione. È contento anche Cerci della giornata di sole, ve lo facciamo sentire domani. Adesso sto meglio, poi c'è anche il sole, quindi quando c'è il sole rifiorisco. Ieri era la partita, naturalmente, sì. Tifoso della Fiorentina, lo dico subito, e la domanda, faccio prima la domanda o la considerazione? Quello la domanda che è a lei. Quello che la vuole. Domanda è, lei perché squadra tifa? Non per la Juventus. Non per la Juventus, no. Questo è anche curioso perché dalla sua analisi poteva sembrare un tipo juventino precedentemente. No, dico questo perché il tifo c'è anche in campo. E l'altra considerazione è, ma se sono i giocatori per primi a non accettare sul campo le decisioni degli arbitri, lo dimostrano le due, una rissa e un'altra quasi rissa che c'è stata ieri in campo, come facciamo a uscire da questo problema secolare? Ovviamente poi il discorso dei gol annullati, io la mia esperienza personale è che da tifoso allo stadio, mentre a casa comunque vedi la moviola subito e quindi ti metti il cuore in pace, magari stai scaldando il popcorn. In campo credo che l'esperienza più drammatica per un tifoso sia assistere ad un gol annullato. La Fiorentina ne ha avuti due, il primo forse anche pagando la fatica della partita di sabato, che invece è stata splendida, bellissima, no? È stata una partita magistrale. Ma infatti è stato per quello che mi ha sorpreso in negativo la Fiorentina di ieri, è stato per quello, perché dovessi scegliere la squadra più in forma del momento, al netto della partita di ieri sera direi la Fiorentina, ed è per questo che mi ha sorpreso in negativo. Questa è la ragione per cui mi sembra riduttivo anche nei confronti della Fiorentina. Bisognerebbe cercare spiegazioni diverse, ma non quella dell'arbitraggio di ieri sera. Forse può essere più interessante la considerazione fatta prima da Canamai, cioè siamo sicuri che sia una squadra alla fine matura per mettere in mano ai Della Valle quell'argento che non hanno mai nemmeno sfiorato, e la domanda credo sia legittima. Non riesco a parlare con Mario da Lecce, vero? No, mi affamo. Mario, domani tanto siamo qui, alle 2 tutti convocati. Giorgio De Luca, nostro dottore, Gianmarco Ferronati in regia, Daniele Buonamici in redazione, ciao a tutti. Buonasera Presidente. Buonasera Marino, come sta? Col baffetto oggi, Oggi, guarda che fa da Taccaruccio con sta cravatta. Ma... E che c'è da dire alla cravatta di Bartoletti? Poi gli regalo io la cravatta.